l'addomesticamento delle donne e la disumanizzazione degli uomini. Ancora oggi resta da raccontare la storia dell'addomesticamento delle donne e in particolare dell'addomesticamento della sessualità femminile. Il brutale asservimento degli uomini nelle grandi società schiaviste dell'antichità, tra cui la Grecia e Roma, comincia ora a essere oggetto di seria attenzione da parte degli studiosi, mentre l'asservimento di gran lunga più brutale e diffuso delle donne resta tuttora generalmente ignorato, se si eccettuano gli scritti femministi. Se per certo viene ricordato, è citato en passant, più come una curiosa tessera del grande mosaico delle tradizioni sessuali che come la materia di cui è fatta la storia seria o importante. Ma chiaramente per le donne questa situazione era e continua a essere molto grave. E in effetti è ed era molto grave anche per gli uomini, che per migliaia di anni hanno imposto e mantenuto l'addomesticamento sessuale e sociale delle donne. Perché, come già abbiamo visto, la soppressione e la denegazione di più antiche norme rientrano in un processo che richiese la massima ingegnosità a livello legale e mitico. Fatto ancora più grave, per scoraggiare qualsiasi deviazione dalle nuove norme era necessario l'uso cronico di una brutalità e di una forza esemplari. L'addomesticamento delle donne, ovvero l'uso delle donne al servizio degli uomini e per la procreazione, come altri animali domestici, quali mucche e asine, non a caso considerati alla stessa stregua del decimo comandamento, era cosa seria per gli uomini, per un altro verso ancora, pure fondamentale. Infatti, intrinseca a questo processo di conversione delle donne in proprietà maschile, era anche la necessità di convertire degli uomini, tramutandoli da esseri umani pienamente coscienti e consapevoli quali erano, in automi psicosessuali. Uomini androcratizzati, perpetuato, condonato e perfino assaporato rapporti personali e sessuali basati non sulla reciprocità dei vantaggi e delle premure, ma su uno sfruttamento e un'oppressione unilaterali. Non che allora come oggi tutti gli uomini si confessassero a questo ideale di virilità. In verità, nel corso della storia, molti uomini hanno rifiutato questi ruoli. Ma oggi, ne accadeva allora, le società sul modello della dominanza non sono governate da questi uomini non conformisti, che anzi ancora oggi sono spesso oggetto di scherno in quanto effeminati. Così, nell'antica Roma, come in Assiria e nell'antica Grecia, la pubblica crocifissione era un metodo comune di esecuzione capitale. L'esempio più pubblicizzato è l'uccisione di Gesù, perpetrato dai soldati romani. Gli uomini che ordinavano le crocifissioni, come gli uomini che in nome di Cristo ordinarono poi la tortura, lo squartamento e o il rogo per le streghe e gli eretici, erano ovviamente abituati a sopprimere, persino a soffocare, qualsiasi sentimento di compassione o di empatia. E affinché gli uomini imparassero a ordinare e le donne e gli uomini imparassero ad accettare tanto sadismo e tanta crudeltà, era necessario che donne e uomini crescessero in famiglie governate esattamente da leggi, valori e usanze del tipo che abbiamo esaminato. Pertanto, il diritto nell'antica Roma attribuiva al capo della casa, il pater familias, poteri personali e sessuali dittatoriali. Sebbene le donne raggiungessero a 25 anni la maggiore età, per tutta la vita restavano sotto il potere del padre, potestas, o del marito, manus. In una normale forma di matrimonio detta coeptio, la donna veniva ceduta allo sposo mediante una vendita fittizia e diventava un suo bene personale. E per quanto ai giorni nostri possa apparire assolutamente incredibile, in alcuni scritti si afferma che le donne potevano anche essere uccise dai mariti per aver bevuto del vino, o quantomeno che tale brutalità era lodata in una parabola morale sui giusti valori della famiglia. In una raccolta intitolata Factorum edictorum memorabilium libri quarto, scrive Valerio Massimo che un certo Egnazio Metello afferrò un randello e a forza di percosse uccise la moglie perché aveva bevuto un po' di vino. E aggiunse: non solo non fu accusato per aver commesso un delitto, ma non fu nemmeno oggetto di biasimo. Tutti lo consideravano un esempio eccellente di punizione perché aveva violato le leggi della sobrietà. In verità, la donna che ricorre immoderatamente al vino chiude la porta alle virtù e le apre ai vizi. Per Peraltro, anche in questo caso è provato che a dispetto di leggi, usanze e valori, nell'antica Roma, così come nelle altre società dell'antichità da noi prese in esame, almeno in taluni casi donne e uomini riuscivano ad amarsi e a coccolarsi. Per esempio, in una lettera alla moglie Calpurna, Plinio il giovane scrive: «Non puoi immaginare quanto mi manchi. Ti amo tanto e non siamo avvezzi alle separazioni. Resto sveglio quasi tutta la notte pensando a te e di giorno i piedi mi portano». E mai portare fu verbo più appropriato alla tua stanza, nelle ore in cui di solito ti rendevo visita. Poi, trovandola deserta, mi allontano, depresso e afflitto, come un amante chiuso fuori. Inoltre, le famose elegie d'amore, scritte da poeti quali Ovidio, Catullo e Properzio, talvolta celebrano quello che oggi diremmo il libero amore, o amore al di fuori del vincolo matrimoniale e l'indipendenza sessuale della donna. Esistono poemi in cui le eroine sono sessualmente autonome, disdegnano convenzioni sociali quali la doppia misura e arrivano a chiedere e a ottenere la fedeltà dei loro amanti. Come scrive Judith Allett nella sua analisi di questi poemi, allora assai popolari, si tratta di documenti notevoli in cui il rovesciamento dei ruoli maschili e femminili, il rifiuto della doppia misura e l'amore romantico inteso come partnership o legame di reciproca fiducia tra pari sono temi importanti. Come osserva Hallett, talvolta questi poemi ricorrono a metafore di alleanza politica per parlare dei rapporti donna-uomo. Talvolta gli autori definiscono la loro vita amorosa un rispettabile sostituto di rango e ricchezza, in una valutazione squisitamente femminile dell'importanza dei rapporti amorosi. Cosa ancor più notevole, rivelano il loro scontento per la tradizionale visione romana delle donne, quali beni pudichi e sottomessi, e per le pratiche romane correnti che accordavano alle donne un'apparente maggiore libertà al solo scopo di sfruttarle ancora di più. Pertanto, forse non è esagerato affermare, come sottolinea Hallett, che questi poemi costituiscono quella che gli storici sociali contemporanei chiamerebbero una controcultura, sebbene vada aggiunto che contengono anche un po' del sessismo e della misoginia tipici di quel periodo. Ma mostrano almeno un qualche tentativo che serve per trovare alternative più orientate alla partnership come fondamento del modo di correlarsi. A Roma ci fu un'epoca in cui le donne godettero di una maggiore libertà personale, in cui almeno le donne delle classi dominanti esercitavano parecchio potere. Ma ancora una volta, nell'insieme, cercavano di esercitare questo potere nonostante un'infrastruttura legale e sociale ancora profondamente radicata, intesa a concentrare il potere personale ed economico esclusivamente nelle mani degli uomini, per esempio promulgando leggi che vietavano alle donne di occupare cariche ufficiali o di votare. E persino la famigerata immoralità delle donne delle classi superiori in quel periodo della storia romana impallidisce di fronte agli eccessi sessuali degli uomini coevi. L'antica Roma, come Sumer, Babilonia e l'antica Grecia, come la Palestina dell'Antico Testamento, era ovviamente una società di gran lunga più civilizzata di quella degli invasori indoeuropei che nella preistoria arrivarono in Europa, quelli che Gimbutas chiama Kurg. Era ben più avanzata a livello tecnologico e culturale. Inoltre, nel primo secolo a.C., la società romana era assai più sofisticata e cosmopolita dell'antica Palestina o di Atene. Comunque, per lo più Roma fu corso della sua storia una società barbaramente crudele, una società fondata sulla schiavitù che conquistò con la violenza un immenso impero, una società in cui era il modello della dominanza, con il controllo maschile sulle donne e il controllo degli uomini superiori sugli inferiori, che strutturava i rapporti personali, nazionali e internazionali. Come scrivono John Peradotto e J.P. Sullivan in Women in the Ancient World, i romani diedero tutto il potere al capofamiglia, come inizialmente diedero tutto il potere ai re di Roma, e come poi avrebbero dato tutto il potere ai Cesari nel periodo dell'impero. I due studiosi fanno notare che fu una società guerriera, una società in cui i valori forti o cosiddetti virili erano tenuti in grande onore ed era disprezzato tutto quanto aveva attinenza con le donne e il femminile, compresa quell'emozione donnesca che noi chiamiamo amore. Era inoltre in una società in cui, come nell'antica Atene, la sessualità nelle sue normali espressioni era spesso casuale e brutale, come si deduce per esempio dalla lettura dell'Asinodoro di Apuleio. Come nell'antica Atene, i padroni abusavano regolarmente delle schiave e le sfruttavano sessualmente, e la violenza sessuale era considerata una prerogativa dei potenti, come documenta l'opera di Svetonio, Vita dei Cesari. In breve, come nell'antica Atene, il fallo era eccelso e sommo, come si evince dai monumenti tipicamente fallici chiamati obelischi, che a Roma e in altre città commemoravano le guerre vittoriose, e dalle rovine di Pompei, preservate dalla lava, in cui sculture di falli in erezione proteggono le case degli uomini. Comunque, a dispetto di tutta la loro idealizzazione del potere del fallo, se osserviamo gli eccessi sessuali compulsivi dei romani, vediamo che in realtà riflettono una certa impotenza sessuale, l'impotenza nel provare un vero soddisfacimento sessuale ed emotivo. Infatti, sui comportamenti sessualmente ossessivi e compulsivi, andiamo apprendendo che in genere scaturiscono dall'incapacità di provare davvero sensazioni corporee e una gamma completa di emozioni. In altri termini, dietro all'apparente insaziabile appetito di sesso e crudeltà di molti romani, con le famose orgie e le pratiche sessuali sadiche di alcuni imperatori, sta la corazza psicosessuale del dominante che blocca efficacemente l'esperienza completa delle sensazioni corporali ed emotive. È questa stessa corazza psicosessuale che ai giorni nostri continua a sospingere gli uomini verso un sempre maggiore numero di conquiste sessuali, verso l'eccitamento delle guerre e tutte quelle altre coazioni frenetiche che alimentano la guerra e la guerra dei sessi. È questa corazza e le frustrazioni in fermento intrinseche a un modo dominante e dominato di strutturare i rapporti umani, che ai giorni nostri trova espressione nei mass media in spettacoli di violenza e crudeltà, che rivaleggiano con il sadismo dei circhi romani voluti dagli imperatori, in cui folle osannanti stavano a guardare la lotta eroica e mortale dei gladiatori contro i cristiani o altri criminali, squartati e divorati da bestie selvagge. Ed è sempre questa corazza psicosessuale che viene espressa e foraggiata dalla moderna industria pornografica che mette in scena il dominio violento degli uomini e l'umiliazione delle donne. E in un susseguirsi di immagini odiose, la crudeltà e la barbarie degli uomini nei confronti delle donne come intrattenimento eccitante e arrapante. Dunque, non soltanto la sessualità delle donne è stata soppressa e distorta nelle società della dominanza, al punto che molte donne tuttora non riescono a esprimersi sessualmente, tantomeno a raggiungere l'orgasmo. Ma come vedremo nella parte seconda, anche la sessualità degli uomini è stata distorta e bloccata nella sua crescita, tanto che a dispetto di tutta la loro ossessione per il potere del fallo, molti uomini sono tuttora essenzialmente tagliati fuori dall'essenza stessa del potere sessuale, la capacità di dare liberamente e di provare fino in fondo il piacere sessuale. Alla fin fine, il culto del fallo non è un culto sessuale, è piuttosto un culto della sessualità maschile, quale simbolo della violenza maschile, della conquista e del predominio. Così come la contesa tra Achille e Agamennone in realtà non era sul sesso inteso come amore di uno dei due per Briseide, ma sul potere. Gli obelischi fallici, che ancora oggi si ergono persino in Vaticano, per non parlare del Washington Monument nella capitale degli Stati Uniti d'America, commemorano non la capacità degli uomini di dare e prendere piacere sessuale, ma le uccisioni e le conquiste belliche degli uomini. Ecco qui l'iconografia sessuale che abbiamo ereditato dalle antiche società esaminate finora. È un'iconografia sessuale diversissima da quella dell'epoca in cui la vulva era il centro dell'arte religiosa, perché ora la vulva è oscena. E persino i greci e i romani pagani la raffiguravano, come noi adesso, soltanto nelle opere pornografiche. Fatto particolarmente sorprendente e tragico, si tratta di un'iconografia sessuale in cui la sessualità non è più una forza vitale primaria, la fonte della creatività umana e dei rapporti personali, ma uno strumento a uso degli uomini per soggiogare e conquistare altri, siano donne o uomini meno aggressivi. Quanto alla spiritualità, come vedremo negli altri capitoli della nostra esplorazione della preistoria e della storia in Occidente, anch'essa fu alterata in modo radicale. Separato dalla natura, dall'erotico e dal piacevole, anche il suo nucleo si spostò, poiché sesso, nascita e rinascita furono gradualmente sostituiti da sofferenza, castigo e morte, quali motivi centrali del mito e della vita. Capitolo 7. Il matrimonio sacro in un mondo della dominanza, le metamorfosi del sesso, della morte e della nascita. I miti più importanti dell'Occidente nascono dalle società che abbiamo analizzato, antica Grecia, Palestina, Sumer, Babilonia e Roma. Questi miti si sono evoluti da un travagliato mescolarsi di elementi più arcaici e di altri più recenti, miti che hanno subito una metamorfosi in funzione di un mondo che ha subito una metamorfosi. Questi miti ci insegnano che avere coraggio significa rischiare la vita per uccidere, e agli uomini hanno insegnato a farlo, piuttosto che rischiare la vita per dare la vita, come fanno le donne. Ci insegnano che la libertà è il fine più nobile di un uomo, mentre nel caso di una donna diventa un ignobile insulto, un epiteto sbattuto in faccia alle donne sessualmente libere o promiscue. Ci dicono che moralità, sessualità e spiritualità sono definite legittimamente dagli uomini, che le donne, in particolare la sessualità femminile, sono pericolose, che la vera spiritualità, come la vera saggezza, il vero potere, la vera giustizia, richiede il distacco da tutto quanto, come sesso, amore e donne. È legato alla carne e al sentimento, agli esseri umani reali e alla vita reale qui sulla terra. Siccome da tali miti sono scaturite sofferenza, ingiustizia, ecatombe e brutalità, taluni pensano che la soluzione stia nel liberarsi dai miti, da tutto quanto non è logico e razionale, e nell'impegnarsi per cambiare le nostre realtà. Ma se vogliamo cambiare le nostre realtà, dobbiamo cambiare anche i nostri miti. Come la storia ampiamente dimostra, miti e realtà vanno di pari passo. Ed ecco che le nuove cognizioni emerse dalle ricerche archeologiche diventano utilissime. Ci aiutano infatti a comprendere che le questioni essenziali, ovvero l'importanza che si dà al corpo, al sesso, alla nascita e alla morte, può essere profondamente alterata, come in effetti è accaduto. Per giunta, ci offrono la possibilità di guardare miti notissimi, compresi quelli sulle relazioni sessuali e su che cosa accade dopo la morte, con occhi nuovi. E di vedere che storie e immagini differenti comunicano modi assai differenti di guardare questo mondo e di vivere in esso. L'immaginario mitico arcaico riflette una visione del mondo in cui la morte non era né un evento isolato, né una destinazione definitiva, in paradiso o all'inferno. Rientrava piuttosto nello stesso ciclo, un ciclo del sesso, della morte e della rinascita, in cui la dea reclamava quanto le era dovuto, e in cui il sesso aveva una parte misteriosa ma fondamentale. Osservando che le donne partorivano solo dopo il rapporto sessuale, i nostri antenati, a quanto pare, ne dedussero che anche la rinascita della vita vegetale e animale in primavera e la rinascita del sole ogni anno con il solstizio d'inverno si genera mediante una qualche unione sessuale. I nostri antenati forgiavano dunque riti grazie ai quali anche noi esseri umani riuscivamo a trovare l'unione con le forze misteriose che governavano l'universo, che si associavano al potere creativo femminile. Perché se le piante potevano essere ripetutamente partorite dalla terra, il ventre della vegetazione, si poteva credere, sebbene agli esseri umani non fosse dato assistere al processo, che la dea, la quale riciclava giorni e notti, orzo e frumento, primavera e autunno, avrebbe riciclato anche la vita umana e si poteva anche credere che mediante riti erotici di allineamento con il misterioso potere del sesso, attraverso il quale la dea eseguiva la sua miracolosa opera di nascita e rinascita, noi creature umane potevamo trovare non solo protezione e conforto nella pena, nel dolore e nella morte inevitabili, ma potevamo anche accrescere, generazione dopo generazione, le possibilità di vivere una vita piena e felice. Ma se in un'epoca più orientata alla partnership, il matrimonio sacro della dea simboleggiava sia l'unione della femmina e del maschio, sia la nostra unità con il potere di dare vita e piacere dell'universo, che tipo di unione sacra si poteva celebrare in un mondo in cui il culto della dea e del suo figlio amante divino sarebbe stato sempre più subordinato al culto di dei violenti e bellicosi? E che cosa sarebbe accaduto quando durante la cristianizzazione dell'Europa il sesso medesimo sarebbe stato condannato in quanto peccato e le donne che si tenevano strette ai vestigi di più antichi riti sessuali sarebbero state chiamate streghe? In un mondo siffatto, il culto della dea e il matrimonio sacro, quale rito religioso e statico, avrebbero necessariamente dovuto acquisire forme e significati assai diversi, come vedremo nelle prossime pagine. È esattamente quel che accadde, con risultati talvolta assolutamente sorprendenti, se non bizzarri. Eroi, mostri e il matrimonio sacro. Una storia affascinante che viene proprio a proposito è quella di Teseo, Arianna e il Minotauro. Secondo questo noto mito greco, che significativamente si svolge sull'isola di Creta, C'era una volta un re malvagio di nome Minosse, che ogni anno esigeva da Atene un tributo di 7 fanciulle e di 7 fanciulli per sacrificarli a una creatura mostruosa, per metà toro e per metà uomo, detto Minotauro. Quando l'azione comincia, i giovani ateniesi, compreso Teseo, figlio del re di Atene, sono appena sbarcati a Creta. Con promesse d'amore, Teseo riesce a ingannare la figlia di Minosse, la sacerdotessa Arianna, e a farsi svelare il segreto che è la sola a conoscere. Come uscire indenni dal labirinto sotterraneo in cui abita il Minotauro assetato di sangue. Armato del magico filo di Arianna e della sua fida spada, Teseo discende nel labirinto, colle di sorpresa il Minotauro e, men che non si dica, lo spedisce all'Ade. Un tratto interessante di questa storia è la degradazione del re Minosse. In versioni precedenti Minosse è ben lungi dall'essere un malvagio. Omero, che parla con grande ammirazione dell'epoca micenea, lo dice figlio di Zeus medesimo. Esiodo lo descrive come il legislatore più giusto e ispirato dell'antichità. Dunque, senza alcun dubbio, la degradazione di Minosse riflette la fine del controllo miceneo sul Mediterraneo e il grande consolidarsi del potere ateniese. Tratto ancora più interessante, se osserviamo la storia alla luce di quanto sappiamo degli importanti ruoli svolti dalla donna, dalle donne cretesi ancora in epoca micenea, è il modo in cui il mito si occupa di Arianna, la quale, come la regina dei Feaci Arete, che Omero ricorda nell'Odissea, probabilmente era ancora venerata dal suo popolo come rappresentante in terra della dea. In questa leggenda ateniese, Arianna è ancora una donna di grande potere. È lei, come Inanna negli inni sumeri, a detenere il segreto del labirinto, di un viaggio iniziatico simile a quello intrapreso da Inanna e Dumuzi nell'oltretomba. Ed è ancora lei a conoscere il segreto per tornare. Però ora la conoscenza e il viaggio non sono più parte di un ciclo mitico che coinvolge sesso, morte e rinascita, e neanche è un viaggio in cui la divinità femminile svolge il ruolo principale. Per contro, un viaggio è intrapreso in solitudine da un eroe maschio e non è come negli inni di Inanna, un viaggio nel regno della dea Ctonia, dove la sorella maggiore, Ereshkigal, è regina. Si tratta invece di un luogo sotterraneo in cui un mostro maschio dotato di corna e zoccoli, molto simile al demonio della successiva iconografia cristiana, divora carne umana. Elemento particolarmente indicativo, in netto contrasto con la storia di Inanna e di Dumuzi, in cui Inanna ritorna dall'oltretomba per continuare a governare il suo popolo, la storia di Teseo e Arianna ha un ben diverso finale. Per lui termina con un viaggio trionfale in patria, dove diventerà re, mentre per lei terminerà con la sconfitta del suo popolo, il tradimento di Teseo e l'abbandono sulla lontana isola di Naxos. Come alcuni dei greci, quali Zeus, Apollo e Ares, erano stati ripresi dalla religione indoeuropea, così alcuni eroi greci, quali Teseo, Ercole e Perseo, erano rappresentazioni idealizzate degli uomini che ormai andavano sottomettendo il mondo antico. Le qualità che questi eroi archetipi incarnavano non erano poi tanto diverse da quelle dei veri uomini epici dei nostri tempi. Si tratta di Rambo o di James Bond. Erano killer incalliti, famosi per il loro potere non di dare, ma di togliere la vita. Non esitavano a ricorrere alla menzogna e alla ruberia per perseguire i loro fini. E in un mondo in cui, alla fine, anche a Creta, le donne andavano trasformandosi in proprietà del maschio, spesso erano non soltanto seduttori e stupratori, ma anche rapitori o ladri di donne. Inoltre, come nei film d'avventura di James Bond o di altri macho contemporanei, il sesso con le donne per questi antichi eroi greci era del tutto secondario e casuale, poiché il sesso non era più un atto sacro legato al culto della dea, ma era ormai connesso alla sovrana ambizione di conquistare e governare, con la violenza soprattutto. Probabilmente per via della presa tenace che l'istituzione del matrimonio sacro, quale legittimazione dell'autorità regale, aveva ancora ai suoi tempi, alla fine Teseo sposa la sorella minore di Arianna, Fedra. Ma come Arianna non è più descritta come rappresentante della dea, invece semplicemente viene detto che lei pure è figlia di Minosse. In altri termini, il potente archetipo antico della dea e della sacerdotessa, che ne era la rappresentante in terra, era ormai stato alterato radicalmente. Altrettanto era avvenuto dell'istituzione del matrimonio sacro, che ormai non si celebra più, come tutti i matrimoni sacri antichi, nella terra della sacerdotessa o della regina, come avrebbero richiesto la matrilinearità e la matrilocalità o uxorilocalità. Si svolge invece nella patria di Teseo, dove questi ha condotto la piccola Fedra, allevata come un membro della sua famiglia, un chiaro riflesso del passaggio dalla matrilinearità alla patrilinearità e dell'usanza ateniese di maritare le fanciulle in tenera età. Ma questi rapporti sessuali, radicalmente alterati, prima tra Teseo e Arianna e poi tra Teseo e Fedra, non sono l'unico modo in cui l'antico matrimonio sacro è cooptato e svilito in questo mito che ruota sulle gesta di un principe greco. Ancora più drammatico, come comprese d'improvviso, rileggendo la parte della storia che riguarda in particolare il Minotauro, è il modo in cui viene svalutato il matrimonio sacro, distorto e in sostanza parodiato nel racconto della nascita del Minotauro. Narra infatti che il Minotauro è figlio della moglie di Minosse, la regina Pasife. Peraltro non è figlio di Minosse, ma di un magnifico toro bianco di cui per punire Minosse di non averglielo sacrificato, il dio del mare Poseidone fa sì che Pasife si innamori. Il toro, come simbolo della potenza virile, risale al Paleolitico, così come con tutta probabilità il mito della sacra unione sessuale del principio creativo femminile con un toro, in quanto in una grotta del Paleolitico troviamo un dipinto altrimenti inesplicabile di un animale cornuto che si erge su una donna incinta. Questo collegamento tra il principio maschile e il toro è ancora chiarissimo negli inni di Inanna, che chiama Domuzi il suo toro selvaggio, e molto più tardi nella Creta minoica e micenea, dove le corna della consacrazione o corna taurine erano importanti simboli religiosi ovunque associati al culto della dea. Sembra dunque fuori dubbio che l'unione sessuale di Pasife con il toro bianco sia ancora il matrimonio sacro del principio femminile rappresentato dalla dea e del principio maschile rappresentato dall'antico dio toro. Ma ormai, invece di essere un rito dal significato religioso fondamentale, esso viene presentato come la relazione illecita e naturale della moglie del re. Inoltre, invece di portare nuova vita a primavera o un fanciullo divino che simboleggia il potere della dea sulla nascita, la morte e la rigenerazione, questa unione sessuale produce un mostro assetato di sangue umano. In breve, come nei dogmi del cristianesimo medievale, il sesso è peccato. Nella leggenda di Teseo, il matrimonio sacro tra Pasife, in quanto rappresentante della dea, e il toro bianco, l'antico dio toro, diventa l'atto adulterino di una moglie infedele. A completare l'opera, capovolgendo completamente miti e archetipi arcaici, il frutto di quest'unione, un tempo sacra, è un demone malvagio e assetato di sangue, che curiosamente prefigura il demonio con tanto di corna e zoccoli del più tardo mito cristiano, che per l'eternità tormenta gli esseri umani nel suo inferno sotterraneo. Sacrificio, demoni e sesso. La demonizzazione operata dai greci sull'antico dio toro, trasformato in un mostro orribile che esige continui sacrifici umani, è particolarmente interessante, poiché nell'arte neolitica la dea medesima è spesso rappresentata come una creatura per metà umana e per metà animale, come dea uccello o dea serpente, che è simbolo dell'unità della natura. Anche l'arte minoica e la più tarda arte micenea rappresentano assai di frequente fantastiche creature ibride, come il grifone, che al pari della Sfinge egizia è in parte felino e in parte uccello. Ma ben lungi dall'essere mostruoso, il grifone minoico è una creatura di mirabile eleganza e invece di raffigurarlo come un essere che divora giovanette e giovinetti, l'immagine del Minotauro che vediamo su un sigillo miceneo lo mostra in una postura piuttosto mondana, abbandonato su una sedia con le zampe accavallate. La demonizzazione di divinità più antiche e di simboli religiosi è un motivo ben documentato e ricorrente in epoca storica. Come scrive John Mayer, coautore con Samuel Noah Kramer di The Myths of Enki e co-traduttore con John Gardner di Gilgamesh, in Mesopotamia l'esempio più straordinario è l'Imdugud uccello, che viene demonizzato come Zu o Anzu, colui che porta il caos rubando il divino me, e deve essere ucciso per il crimine contro l'universo. Un altro esempio è costituito dalle protettive lama creature, che quantomeno nelle rappresentazioni artistiche diventano il demoniaco Humbaba, ucciso dagli eroi Gilgamesh ed Enkidu, sebbene fosse il custode della foresta di cedri e connesso al dio Enlil. Di frequente la demonizzazione delle figure mitiche più antiche si connette all'accusa di esigere sacrifici umani. Per esempio, così trasformarono l'antica dea dei serpenti nella terribile Medusa e la dea degli uccelli nelle terribili arpie. I greci asserirono che i titani, gli dei più antichi della cosmologia greca, mangiavano i propri figli. In Medio Oriente, la demoniaca Lilith è un altro esempio che fa al caso nostro. In talune leggende ebraiche viene punita da Yahweh per non essersi sottomessa ad Adamo, in particolare per essersi rifiutata di giacere con lui nella posizione del missionario, il maschio sopra e la donna sotto. E il castigo è quello di dover ogni giorno uccidere migliaia dei suoi figli. Ma mentre in epoca storica, sia le donne, per esempio le streghe medievali, sia le dee, per esempio Ishtar e Astarte, sono talvolta associate al sacrificio umano, ben poche testimonianze artistiche e rari ritrovamenti preistorici supportano la tesi che il sacrificio umano fosse una parte di rilievo del retaggio di società arcaiche in cui si venerava la dea. Per cominciare, non esistono immagini artistiche che rappresentino il sacrificio umano nell'arte paleolitica, neolitica o minoica. In effetti, al posto di giovinette e giovinetti divorati da un mostruoso minotauro, nell'arte minoica troviamo scene di giovinette e giovinetti che danzano con i tori, in quello che pare essere stato un importante rituale di abilità atletica e di devozione religiosa. Dal nostro punto di vista, questa danza coi tori è un rituale assai strano, specie perché siamo abituati all'idea della corrida, in cui il matador, cioè in spagnolo l'uccisore, fa montare la collera del toro più volte, ferendolo, e poi lo finisce con la spada in un atto rituale di dominanza e conquista. Ma nei termini di un'ideologia, non di conquista della natura, ma di allineamento con i poteri di dare la vita e di minacciare la morte, la danza di fanciulle e giovani minoici, disarmati, con questo possente animale, della cui potenza sessuale e del cui potenziale distruttivo si è favoleggiato, sarebbe tutt'altra cosa. Forse, conformemente a quella che l'archeologo Nicolas Platon chiama l'ardente fede dei minoici nella dea natura, il suo significato era letterale. Un atto in cui il leggendario amore di queste popolazioni per la vita era simbolicamente riequilibrato rispetto all'onnipotente possibilità della morte. Infatti, specie su una terra sismica, ci si aspetta di trovare rituali attinenti alla natura ricorrente della vita e della morte. Comunque, il mito del sacrificio umano nella preistoria cretese si protrae nel tempo, anche se non esistono valide testimonianze archeologiche di sacrifici rituali in tempi minoici o nel Neolitico. Mellard osserva l'assenza di altari per i sacrifici cruenti a Catalhuc e Ghimbuta sottolinea che per la maggior parte le precedenti interpretazioni dei ritrovamenti archeologici, ritenuti prove dell'usanza del sacrificio umano, erano errate, poiché si trattava in realtà di sepolture secondarie delle ossa dei defunti, assai comuni, come sappiamo, nelle società preistoriche dedicate al culto della dea e che di fatto sono ancora in uso in talune zone del Mediterraneo. Come documenta una cerimonia registrata in Tessaglia in cui significativamente le parenti del defunto avevano ancora un ruolo fondamentale. Per esempio, Ghimbuta scrive che i ritrovamenti archeologici rinvenuti in una grotta preistorica dell'Italia sudorientale, contenente le ossa di oltre 100 persone, dal cui scheletro in certi casi il teschio era stato staccato prima che vi fosse deposto il resto del corpo, e che presentavano talvolta dei segni incisi, si possono ora comprendere nel contesto delle antiche diffuse usanze funebri in cui la testa del toro veniva staccata per ricevere speciali attenzioni rituali prima di ottenere sepoltura separatamente, e ciò non sta ad indicare un sacrificio umano. Alcuni ricercatori, tra cui Vicky Nobel e Barbara Walker, credono addirittura che la pratica del sacrificio animale sia un'usanza della società sul modello della dominanza, o come la chiamano loro, patriarcale. Asseriscono che il più antico sacrificio cruento era il sangue mestruale della donna liberamente offerto, simbolo, come l'ocra rosso nelle sepolture del Paleolitico e del Neolitico, di rigenerazione o rinascita, e che il procurarsi sangue sacro uccidendo si sarebbe reso necessario quando il potere sessuale della donna cessò di essere un elemento importante della mitologia e del rito religioso. Asseriscono inoltre che storie come quelle che si raccontano negli inni mesopotamici di Inanna, in cui la dea Inanna e il toro re Dumuzi tornano nell'oltretomba per una parte dell'anno, l'autunno e l'inverno, vennero in seguito prese alla lettera. In altre parole, suggeriscono l'ipotesi che nelle società patriarcali divennero uccisioni rituali quelli che erano un tempo semplicemente dei simboli, come l'archetipo della morte, della risurrezione della dea o del dio che muoiono e risorgono, ovvero riti simbolici, come l'Eucaristia, in cui il prete dà ai fedeli un'ostia che simboleggia il corpo di Cristo e del vino che ne simboleggia il sangue, piuttosto che veri e propri sacrifici umani. Se nutro anch'io un certo scetticismo sulla tesi che il sacrificio umano fosse un'usanza comune nelle società dedite al culto della dea, prima del passaggio a un'organizzazione sociale della dominanza, credo senz'altro che in alcune società neolitiche o forse anche paleolitiche gli animali venissero uccisi ritualmente. Ma detto questo, desidero aggiungere che esistono attestazioni secondo cui, quantomeno in certe zone del mondo antico, i sacrifici cruenti sono forse stati un'usanza caratteristica del pastoralismo piuttosto che delle popolazioni dedite all'agricoltura. Per esempio, commentando l'asserzione secondo cui il sacrificio umano era diffuso nella Creta minoica, Godison sottolinea che per la verità solamente con il passaggio dai minoici ai più bellicosi micenei indoeuropei cominciamo a trovare nell'arte cretese frequenti immagini di animali nel momento del sacrificio. Come scrive, non un solo sigillo del periodo arcaico celebra l'atto vero e proprio del sacrificio animale, il che è in netto contrasto con il periodo successivo, quando divinità maschili in armi, in posizioni di comando, spesso in piedi su una piattaforma elevata, cominciano a diventare preeminenti, e in cui invece di associazione, armonia, rispetto e identificazione con le creature rappresentate, cominciamo a trovare espressioni di dominio assieme alla frequente rappresentazione di animali domati, morti e trascinati via. Un altro interessante argomento a favore della tesi che il sacrificio cruento, animale o umano che fosse, era un'usanza pastoralista piuttosto che agraria, è contenuto proprio in uno dei primi capitoli della Bibbia giudaico-cristiana. Apprendiamo infatti che il sacrificio cruento del pastoralista Abele, la pecora uccisa, è più gradito a Yahweh dell'offerta di frutto della terra fatta da Caino. In un completo rovesciamento della realtà storica dei pastoralisti che distruggono e o sottomettono le più antiche società agrarie, Caino, rappresentante appunto dei più antichi popoli agrari, è accusato del crimine mostruoso di fratricidio. Ciò non significa che il sacrificio animale o anche umano non possa essere stato praticato nelle società che veneravano la dea nella nostra più lontana preistoria. Tuttavia, se fosse stato un rituale importante e diffuso, ci aspetteremmo di ritrovarne illustrazioni nell'arte assai ricca di queste società, cosa che non si verifica. In realtà, soltanto nell'arte di successive società orientate sul modello della dominanza, come gli Egizi, presso i quali talvolta mogli e schiavi erano sepolte assieme ai faraoni e agli Aztechi, i cui re sacerdoti strappavano il cuore ai guerrieri catturati e sacrificavano vergini ai loro dei bellicosi e irati, troviamo ampie prove della pratica del sacrificio umano. È anche presso società molto più tarde rispetto al cambiamento culturale che stiamo esaminando, per esempio i bellicosi cartaginesi, che troviamo le attestazioni archeologiche più convincenti di sacrifici umani rituali. Inoltre, solamente presso società più tarde orientate sul modello della dominanza troviamo leggende sul sacrificio annuale a un re divino, il figlio sposo della dea. Così, negli inni di Nanna, il matrimonio sacro è ancora di primaria importanza e il sesso è associato al piacere e alla rinascita della natura. Il viaggio nell'oltretomba, la morte, pure realisticamente crudele e spaventoso, è anch'esso associato con la rinascita, il ritorno periodico prima di Nanna e poi anche di Dumuzi e di sua sorella. E sebbene sia stato detto che durante le festività per l'anno nuovo che si svolgevano a Babilonia, quando il matrimonio sacro della dea e il sovrano regnante veniva ancora celebrato, un re o il suo surrogato poteva anche essere ritualmente ucciso, nulla sta a indicare un evento del genere negli inni di Nanna o nei testi mesopotamici. Per contro, nella storia della lotta rituale tra i sacerdoti, all'esterno di un tempio dedicato alla dea romana Diana e situato in un boschetto in Italia, storia su cui James Frazer ha in gran parte basato ne The Golden Boat, il ramo d'oro, la tesi del sacrificio umano rituale nella preistoria, il matrimonio sacro si associa a un atto di uccisione rituale a cui è subordinato. Similmente nel mito greco di Teseo e del Minotauro, il matrimonio sacro è secondario, associato non al piacere ma al castigo divino che colpisce re Minosse e sua moglie, perché il re non ha sacrificato il bellissimo toro bianco al dio greco Poseidone. In altre parole, se nell'arte e nei miti arcaici il tema principale è la rigenerazione ciclica della vita, incentrata sul sesso, l'amore e la rigenerazione, nell'arte e nella mitologia più tardi si sottolineano il castigo, il sacrificio e la morte, addirittura quella dea che talvolta, come nel caso di Ishtar, esige il sacrificio umano, in guerra oppure nel mito religioso. E questo rilievo dato dalla morte e al sacrificio non sorprende affatto se pensiamo che questi miti riflettono un mondo in cui il sommo potere non è più il potere di dare e nutrire la vita, ma il potere di prenderla con crudeltà e sofferenza. Ovvero, come osserva il teologo Walter Wink, se nei miti di quel mondo si riservava tanta attenzione a mostri e demoni come incarnazioni del male, era perché il male era tanto diffuso. E se i protagonisti dei miti erano tanto violenti, Era scrive, perché la storia di questi dei riflette perfettamente i reali sviluppi politici che si verificavano all'interno dello Stato.